dove il grigio del cielo col grigio del mare si confondeva, alto come se il malotempo non lo toccasse, un filo di fumo nero di pece spaccava in due l'orizzonte. Madre Santa, disse dentro di sé Nino, e com'è che non l'ho visto prima? Si era riparato in fondo al terrazzo, sotto un pergolato che il vento stava portandosi via pezzo a pezzo, e tutto insieme non solo il fumo gli si era parato davanti, ma bello e chiaro tutto il vapore, così vicino dentro la lente del cannocchiale che a momenti si vedevano i peli del naso a quello del bordo. Don Angelino Villa Sevaglios stava immobile sulla sua seggia, in mezzo al terrazzo, la testa calata sul petto, il cappello incarcato sulle orecchie perché le ventate non glielo facessero volare, e pareva un bubo di pezza, di quelle che si mettono in mezzo al frumento per spaventare i passeri. Nino ebbe l'impressione che fosse stato preso da un sonno piombigno. Adagio si mosse dal pergolato al muretto, combattuto fra l'ordine che aveva ricevuto in continuazione di segnalare il fumo appena a vista e la tentazione di lasciare dormire il padrone. Così forse si calmava un poco, perché dalla mattina pareva insetato sull'agro. Dall'altra parte, se gli diceva subito che il vapore stava arrivando, la camurria finiva e se ne potevano scendere in casa, al coperto, levandosi da quel terribilio di vento che lo stava ingionando. Aveva appena riportato all'occhio il cannocchiale che si prese uno spavento di morte. Cinque dita venute dal niente gli artigliarono la spalla con tanta forza che per un momento gli parvero dente d'animale. «C'è il fumo? Che c'è il fumo?» Grigio in faccia, Don Angelino gli era arrivato al lato e lo brancicava mentre lui ancora non riusciva a capacitarsi, come avesse fatto il vecchio, ad alzarsi e a muoversi con tanta sicurezza. «Sì, si vede pure il vapore! Dammi il cannocchiale, presto!» Completamente preso dai turchi, Nino glielo diede. «Mettete dietro a me!» Nino gli si mise dietro alle spalle senza spiccicare una parola. Sentiva Don Angelino tremare come sotto un attacco di malaria mentre si portava all'occhio il cannocchiale. «Puntalo verso il fumo!» Pigliando Don Angelino per le spalle, Nino orientò il padrone verso il vapore. «Sta uscendo pazzo!» pensava intanto. «Sono 100 anni che deve andato orbo, che fa, se l'è scordato?» E la conferma che Don Angelino fosse uscito pazzo l'ebbe un attimo dopo, quando lo sentì dire distintamente, mentre in brividi ora lo scuotevano a vista e non si capiva più se era il vento o la febbre che lo faceva cimiare. «Nino, lo vedo, lo sto vedendo, il fumo!» Poi Don Angelino si mise a ridere. Nino era destinato a campare altri 20 anni. Storia ne aveva viste tante e tante ancora ne avrebbe viste. Ma quei momenti, inchiovati per sempre nella sua memoria, sarebbero rimasti senza paragone, e attraverso il suo racconto, sempre uguale, mai variato, sarebbero poi entrati nella leggenda del paese. La rasata dunque, che pareva fatta sbattendo due latte vaganti de sarde, e il cannocchiale che gli cade dalle mani e va a rompersi sopra il tetto della casa di sotto, e Don Angelino che si piega come se gli fosse venuto il mal di pancia e che si regge al muretto con tutta la forza che gli resta, e il vento che finalmente ce la fa a portargli via il cappello duro e la voce allegra, sì, allegra.